Un regno indistruttibile. Leggo nella Bibbia, nel libro di Daniele, dal capitolo 7, versetti 13-14. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Sta per concludersi un altro anno. Dal punto di vista economico si continua a parlare di crisi, e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Dal punto di vista della politica internazionale la situazione rimane sempre delicata, soprattutto in Medio Oriente. Sempre più persone invocano qualcuno che sappia trovare una soluzione a questi problemi. Il rischio è alto. Infatti, quando si invoca un uomo forte, che prende in mano la situazione, si finisce poi per avere effetti collaterali, che risultano essere un prezzo troppo alto da pagare. Sono proprio i momenti delicati in cui un popolo è disposto a tutto pur di avere un ribaltamento della situazione in cui si trova, che espongono al rischio di dittature che possono privare i cittadini della propria libertà. Credo che ci si possa attendere nei prossimi anni un peggioramento della situazione proprio per questo motivo. Il mondo sta andando in una direzione da cui potrà poi uscire solo con un intervento divino. Solo quando tutti i regni della terra avranno fallito, Dio interverrà in maniera decisiva e instaurerà quello che questo verso chiama un regno indistruttibile. Chi è quest'uomo che riceve un dominio addirittura eterno? Nella Bibbia l'unico che può corrispondere a questa descrizione è Gesù Cristo. Qualcuno osserverà che Gesù è morto, ma non dobbiamo dimenticare che è anche risorto. Gesù ha utilizzato spesso l'espressione figlio dell'uomo, identificandosi proprio nel personaggio descritto in questo verso. Anche se potranno esserci periodi in cui ci illuderemo di avere una certa stabilità, ricordiamoci che l'unico governo che davvero praticherà la giustizia e porterà la vera pace è quello in cui sarà Gesù stesso a regnare. Oggi, come credente, io posso già vivere al servizio del Re. Ma verrà un tempo in cui anche coloro che oggi lo disprezzano dovranno riconoscere che Gesù è il Re dei Re e il suo regno è un regno eterno che non sarà distrutto.